as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi a Del Pane e Rose, puntata in questo caso dedicata a una vertenza, a una lotta. A una lotta importante, una lotta di una fabbrica storica dell'Emilia Romagna. Stiamo parlando della Berco, della provincia di Ferrara, a Copparo, un'azienda metalmeccanica al 100%, cingoli per trattori, quelli, no? Si usano per il movimento terra e anche altri prodotti sempre del mondo del movimento terra. Purtroppo avete sentito tutti sui telegiornali, l'avete letto sui giornali di questa vergognosa vicenda. La ThyssenKrupp, che è l'azienda che conosciamo molto molto bene, che noi del Pane e Rose odiamo, perché non ci dimenticheremo mai di quei dirigenti che ancora oggi sono lì, che sfuggono alla legge italiana, dovrebbero essere arrestati, sono stati condannati, ma sono in Germania e nessuno li va a prendere. Questa azienda di ThyssenKrupp, spietata, come poche multinazionali al mondo, ha licenziato con un'email 480 lavoratori, quasi tutti operai, e noi siamo andati alla manifestazione ieri, che si è svolta a Copparo, e lì abbiamo intervistato Bondi, il primo a essere intervistato, che è il segretario della FIOM di Ferrara. Poi abbiamo intervistato Gianni Cotugno, segretario regionale della FIOM, e poi abbiamo intervistato un delegato della FIOM della Berco. Ora, adesso vi lascio a un bellissimo pezzo che voglio dedicare. Questa puntata sarà dedicata alla musica, non ai lavoratori della Berco, ma la dedico a quei ragazzi che ho visto lottare con la polizia per arrivare a dire a quei fascisti che erano lì in piazza 20 settembre questo weekend, che non possono stare lì, cioè non potrebbero nemmeno esistere, perché comunque sono criminali, perché ricordiamo a tutti che il fascismo in Italia è illegale, anche se purtroppo sono anni che, anche se la Costituzione dice che non dovrebbero esistere, esistono e continuano a diffondere, continuano a manifestare le loro idee, pensate un po', che sono incostituzionali. Dunque in quella manifestazione gli unici a far rispettare la Costituzione erano sia chi ha protestato, ha manifestato in piazza dicendo che non era giusto che delle persone che violano la Costituzione possono stare in piazza e fare un corteo, e sia quei giovani che hanno detto: noi vogliamo arrivare là e dirgli a quelle persone che se ne devono andare. Purtroppo sono stati fermati dalla polizia. Queste canzoni di questa puntata le dedico a loro. Iniziamo con la prima, sempre di King of Saba, che secondo me riescono a coniugare benissimo l'amore, la gioventù e la rivoluzione nelle loro canzoni. Ecco, questa è Valentine. A dopo con l'intervista. Por polizia, ma come lenta la tua bocca quando è sulla mia. Fuoco alle polveri, se mi guardi così va tutto ra ra ra ra ra ra rallenti. Avevi gli occhi rossi come lune, i lacrimogeni nell'aria, 100 contro 1. E io volevo dirti scappa, avevo paura, ma te la lotta ti fa bella e hai la testa dura. Durante gli attimi feroci e lenti grigno i denti, insegnami a colpire dove fa più male. adesso gli occhi pieni di furore, le barricate, le bandiere alzate fino al sole, e io con te una banca a fuoco glielo vorrei ridare, per poi scopare sulle ceneri del capitale. Allora, ciao. E niente, siamo qui oggi a manifestazione. Siamo venuti da Bologna, vediamo un sacco di lavoratori. Siamo con te qua, Bondi. Parlaci insomma di questa realtà che sono anni che, di lotte. Sì, purtroppo. Allora, intanto io vi ringrazio che siete venuti oggi da Bologna, così ma anche da tutti i territori della regione a sostenerci. Oggi è lo sciopero comunque del territorio di Ferrara, di tutto il settore metalmeccanico, perché purtroppo abbiamo una situazione di crisi devastante sul territorio. Partiamo ovviamente dalla Berco di Copparo, che è l'emblema di questa crisi. Questo è un colosso, o meglio, era un colosso che occupava 2500 lavoratori 10 anni fa, ad oggi sono poco più di 1200. Questa è la terza ristrutturazione che stiamo subendo. Oggi il nuovo amministratore delegato, il nuovo board, annuncia 480 licenziamenti e la disdetta della contrattazione aziendale tutta, perché le tensioni geopolitiche hanno aumentato l'energia, il gas e l'acciaio, e quindi ciò che succede nel mondo, le guerre, vengono scaricate sulla pelle degli operai. Ovviamente è una situazione inaccettabile, non siamo disponibili. Questo significherebbe, oltre a creare un problema ai lavoratori di Berco, quelli che purtroppo vogliono far uscire, ma anche quelli che eventualmente resteranno perché gli tagliano la contrattazione, è un problema enorme per il territorio, che non è più in grado di assorbire occupazione, in quanto da qui a fine anno abbiamo stimato che abbiamo circa 800 persone che sono a rischio licenziamento e più di 3.300 che sono in ammortizzatore sociale su un massimo di 9.000 occupati metalmeccanici sul territorio. Quindi è chiaro che il territorio di Ferrara è al tracollo dal punto di vista del lavoro industriale metalmeccanico. Qui alla Berco quanti dipendenti ci sono oggi? Oggi ci sono poco più di 1.220 dipendenti, di cui 950 sono operai e il resto sono impiegati. Notare che dei 480 esuberi, 450 sono operai, quindi il 50% della forza lavoro operaia. E quindi c'è un grosso interrogativo anche sulla prospettiva, perché ci si domanda come potrà stare in piedi questa azienda. Ma infatti hanno intenzione di delocalizzare questi prodotti? Già sono delocalizzati? No, non si tratta di delocalizzare. A causa delle guerre, dell'inflazione e quant'altro, hanno perso il 50% del mercato e quindi decidono di ridurre la forza lavoro del 50%. Un piano industriale fatto di tagli. Ma la domanda che si fanno in tanti, è: qui alla Berco cos'è che producono? Non producono qualcosa per la guerra? No, anche non hanno produzione militare, tutto ecco per le macchine in movimento terra. Questo è il problema. Insomma, c'è una crisi degli investimenti, perché i paesi non investono più, perché il movimento terra di solito, quando i paesi fanno politiche di investimento, teoricamente dovrebbe andare. In realtà in questo momento il mercato è fermo, i costruttori che insistono in Europa si stanno spostando in Asia e di conseguenza Berco perde buona parte del mercato dei primi costruttori. Ovviamente è un problema, è un'azienda che però oggi non ci dà un piano industriale di investimenti e quindi in qualche modo non possiamo permettere che ciò venga pagato dai lavoratori. Il territorio è abbastanza compatto, abbiamo visto, no? C'è molta gente che sta scioperando, Ferrara. Sì, ovviamente è lo sciopero del territorio e quindi sì, c'è tutto il territorio che sta scioperando, perché ripeto, Berco è la realtà più grossa del territorio ed è quella che oggi annuncia un piano di tagli di 480 persone, ma abbiamo moltissime aziende sul territorio in cassa integrazione o che stanno per licenziare, magari in realtà più piccole che non stanno sugli onori della cronaca, ma che comunque hanno un grossissimo problema. Dunque la Ferrara risente tutta la crisi nazionale che c'è in questo momento dell'industria metalmeccanica. Nazionale, ma anche direi europea, perché quando si parla di temi del costo dell'energia, della materia prima, sì, è evidente che c'è un problema di politiche industriali nazionale ma anche europeo. Abbiamo visto questo in Germania. Appunto, questi sono di proprietà della ThyssenKrupp, della multinazionale tedesca. Immaginavamo. Grazie Bondi, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. aspettative. Allora, abbiamo qua Gianni Cotugno, segretario regionale della FIOM. Oggi la FIOM è qui, insieme anche agli altri sindacati, a fianco dell'Alberco. Io ho visto diversi delegati RSU di diverse dei territori dell'Emilia Romagna, anche se oggi è lo sciopero per il territorio di Ferrara. Certo, oggi è lo sciopero del territorio di Ferrara, come sempre l'elemento della solidarietà tra lavoratori è un elemento a cui teniamo molto da conto, per cui oggi da tutta la regione ci sono delle delegazioni per portare il sostegno non solo alla vertenza di Berco, ma quella di tutto un territorio che rischia la desertificazione industriale, anzi che già pienamente dentro un percorso di desertificazione industriale. Abbiamo parlato prima con Bondi, che ci ha spiegato che il territorio è veramente... ci sono due realtà, c'è la realtà territoriale di Ferrara che è in crisi molto, abbiamo fatto anche altre vertenze, abbiamo seguito con il territorio, è veramente depresso a livello di come industria metalmeccanica, però risente anche qui, c'è la ThyssenKrupp, stiamo parlando di Berco, anche a livello internazionale. Rispetto come dire, al tema specifico, è evidente che abbiamo più di un problema. Abbiamo il problema delle multinazionali che possono decidere di spostare con un click o con una mail produzioni e quindi portare al licenziamento di centinaia e centinaia di lavoratori. Abbiamo un problema più in generale di politiche industriali, perché dove, come dire, le imprese pongono un tema rispetto ai costi dell'energia, delle infrastrutture, ai costi di trasporto, noi non abbiamo nulla da controbattere. È evidente che seppure le lotte sono importanti, ma è necessaria una serie di politiche industriali per mantenere le produzioni in questo paese, perché altrimenti si rischia, come dire, una Ferrari in ogni dove. Certo. E si pensa di fare delle iniziative specifiche sul territorio per quanto riguarda la situazione di crisi che si sta verificando? Cioè, oggi siamo qui per la Berco, ma adesso c'è il contratto nazionale, ci sono varie vertenze, ma per quanto riguarda le crisi? Ecco, proviamo a tenere distinti dal ragionamento, se no rischiamo di far confusione, che ci sono tutte le iniziative che saranno previste a breve rispetto al rinnovo del contratto nazionale, che tengono un loro spazio. Rimanendo sul territorio, sulle motivazioni di questo sciopero e su quello che si può e si deve fare, penso sia necessario individuare un elemento di politica industriale specifico del territorio. Dobbiamo pensare a un contratto d'area speciale che come dire, porti degli investimenti su questo territorio, crei le condizioni affinché, come dire, ci sia un elemento di ripresa e non si continui con questo stilicidio di aziende e di posti di lavoro. Abbiamo perso oltre 2.500 posti di lavoro negli ultimi 10 anni nel solo pezzo metalmeccanico, e guardando anche alle prospettive di un altro distretto importante, quello del petrolchimico, che anch'esso è in crisi e in difficoltà, se non immaginiamo un'iniziativa straordinaria, come dire, fornita di risorse importanti, che riesca a dare un elemento di slancio a questo territorio, non andiamo da nessuna parte. Per cui serve un'iniziativa straordinaria, serve un contratto d'area speciale che dia una prospettiva a questo territorio. Ok, grazie mille. Allora, siamo qui con il delegato della FIOM. Ciao Berco, Cardellini Diego. Ciao. Della FIOM Berco. Allora, bella manifestazione, c'è un sacco di gente, di te sono anche le autorità del territorio. C'è lo striscione della Berco qui davanti. È riuscita una manifestazione, sciopero territoriale. Allora, raccontaci un po' la tua cosa ci puoi raccontare della tua vertenza, di quello che sta succedendo, come stai vivendo? Ah, niente, è successo che l'azienda, come sapete tutti, ha già aperto la procedura del licenziamento di queste 480 persone più la disdetta del contratto aziendale. L'ultimo giorno è stato venerdì, che si sono incontrati con i nazionali che hanno parlato, e loro non vogliono ritirare questa procedura qua. Noi invece vogliamo che la ritirino per riuscire ad avere un dialogo, per riuscire a trovare una soluzione per questa azienda, perché se mettono a casa tutte queste persone qui, l'azienda è molto in difficoltà ad andare avanti. Che futuro ci può essere in questa azienda mettendo a casa tutte queste persone? Sarebbe la metà degli operai? Sì, all'incirca è uno su due. Quindi dopo, chi lavora dentro, che prospettiva c'è su questa azienda? Ma questi prodotti, ThyssenKrupp, li sta facendo in altri posti, oppure ha deciso di non farli più, oppure è un calo del 50% della produzione? Intervista che abbiamo fatto ci ha detto che ha perso i primi costruttori, quindi sono andati tutti in Asia, sono andati tutti fuori dall'Europa, e allora lei ha detto che ha avuto un calo di produzione per questa motivazione. Di quanto? Di quando il calo? Quando ve l'ha detto che quanto... il 40%, perché anche solo lì in Russia, facendo le sanzioni così, abbiamo perso un primo costruttore che era il nostro 40% anche del fatturato. Aia. Dunque sta dando la colpa alla guerra, in un certo senso, ma completamente. La guerra ha molto inciso sulle nostre cose, e in più le materie prime, qua aumentando l'acciaio, aumentando l'energia elettrica, aumentando anche i trasporti, adesso anche le guerre che ci sono lì in Israele così, con i trasporti così, noi abbiamo anche un grosso problema, perché noi andiamo sempre all'estero. Certo, questo ce l'abbiamo tutti, cioè io lavoro in Bonfiglioli, ce l'abbiamo anche noi. Sta facendo il local to local, come lo chiamano, esatto. Loro, producono, vendono in Asia e producono in Asia. E loro per risolvere questo problema fanno prima licenziare le persone, come tutte le multinazionali che fanno parte. Abbiamo anche la Rexnor qua nel nostro territorio, che anche loro... Come si chiama la? Rexnor. Okay. Che era l'ex Tollock, anche loro andavano bene anche col fatturato, andavano bene con la produzione, però è americana, mi sembra di sapere che sia americana, e hanno deciso di spostare tutta la lavorazione da fuori in India. Quindi, certo. Queste multinazionali vengono qua da noi, prendono il profitto e poi dopo se ne vanno. Noi non troviamo giusto come operaio che vengono qua, prendono la nostra professionalità e poi dopo se ne vanno via. Dunque il vostro primo cliente era russo, fondamentalmente, costruiva trattori c'era in Russia? Era russo, c'era la Liber, c'era la JBC, c'erano molti primi costruttori che venivano con noi. Avevamo molto... Però che fatturato vi dava il russo, il cliente russo? A noi ci hanno solo detto del 40%. 40%? Era il nostro primo costruttore, quello che era... E adesso voi non potete più venderlo a lui, perché ci sono le sanzioni. Le sanzioni che sono state fatte, lui è andato dall'altra parte. Dunque voi state pagando... Molto con questa guerra qua. La guerra dovrebbe, dal mio punto di vista, finire, iniziare a fare un piano industriale su tutto il territorio, dappertutto, per riuscire a riportare del lavoro qua in Europa e in Italia, anche soprattutto nei nostri territori. Invece purtroppo i nostri politici vogliono continuare ancora questa guerra, stanno finanziando questa lì guerra. Non posso parlare di politici, non so cosa gli possa passare per la testa, però dovrebbero capire che non è così semplice, soprattutto per noi. Certo, allora voi volete che venga bloccato i licenziamenti, un nuovo piano di investimenti per poter produrre. Per avere un futuro anche su questo paese qui, su tutto il territorio qua a Ferrara, perché ricordo che questo territorio qua ha perso, c'erano molte aziende, c'era... la BBS, c'era anche anni fa il latte Ala, tutte queste aziende qua grosse che avevano così. La Berco le aveva assorbite lei anche come operaio, perché andava molto bene come produzione, come questa cosa. Se chiude anche questa azienda qua, tutte queste persone qua dove vanno al lavoro? Anche perché c'è un calo, anche sì. Perché anche qua la Coop, Aliper, tutta roba che va per le persone, le scuole, tutte così, anche un futuro per i nostri figli. Certo. Cosa ci potrà essere un giorno d'oggi? Il segretario regionale della FIOM ha proposto un piano regionale di investimenti, di sviluppo. Sì. Bisogna parlare più in alto di noi che facciano queste procedure qua. Ok, noi saremo al vostro fianco sempre. Grazie mille, vi ringrazio. Ciao a tutti. Mi sento perso in questo vento caldo. Avrei bisogno di posare il cielo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Che non ti fammi fare un tiro dalla bocca tua, espiro in giro. Entro solo le boccate, fatto perdere il senso del tempo, lo spazio e le case. Ma tu passami la piccia che accendo, mani sarà un giorno diverso. Tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby, escucia. Amami come ameresti Bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto girane una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai, dentro il fumo denso. Avrei bisogno di trovare il tempo per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontano. Se le guardie ti fermano, scappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la piccia che accendo, ma ne sarà un giorno diverso. Intanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Di te ora baby scusa, devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto gira nebuna. Se fumare una scusa per restare con te, non scendo da. ma mi pare alto. Il numero di chi non è uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi ho i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Tu dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami, forte fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate, ste regole chi cazzo le ha inventate. Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette, con t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come in Valdi, scusa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi, sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto giro le luna. Se fumare una scusa per restare con te. Scendo dai becchi, ci sono troppe scale. E la municipale che ci fa ridere. Salgo su da te, intanto giro le luna. Se fumare una scusa per restare con te. Allora, avete sentito quest'altro pezzo di Queen of Saba, ACAB, che non è mica rivolto ai poliziotti, no, non significa All Corp Hard Bastard, ma amami come ameresti Bambi. I Queen of Saba sono davvero molto romantici in questo, ecco perché li abbiamo messi. Abbiamo detto che questa puntata la dedicavamo ai ragazzi che hanno fatto gli scontri questo weekend contro Casa Pound. Incostituzionale, come ho detto nell'introduzione, dal mio punto di vista, perché sono molto gentile e molto educato, e anche questa qui la dedico volentieri. Ora, prima del pezzo, per chi si fosse collegato solamente adesso, abbiamo ascoltato le interviste che ho fatto, in cui ho partecipato alla manifestazione di ieri a Copparo in provincia di Ferrara, la manifestazione della Berco, dei lavoratori che hanno scioperato, che sono stati, insomma, gli è arrivata un'istanza di licenziamento di 450 lavoratori, parliamo del 50% dei lavoratori della Berco. Ora, per chi si fosse collegato adesso, e comunque per quelli che hanno ascoltato la trasmissione, avete capito anche dalle interviste che la questione della Berco è una questione molto molto delicata. Parliamo di un settore che non è legato alle armi. Molto probabilmente se avessero costruito cingoli per carri armati, in questo momento non si parlava di esuberi, ma forse avrebbero assunto. Questo non è detto, ma le aziende che stanno investendo sulle armi stanno andando abbastanza bene in tutta l'Europa, visto anche la guerra. In realtà questa guerra ha penalizzato tantissimo la Berco, perché, come avete sentito anche dall'intervista del delegato, il loro primo cliente era russo. Il 40% del fatturato che la Berco faceva lo faceva verso la Russia. E lì è stata la prima mazzata, perché la Berco non è che da un punto in bianco è arrivata questa crisi, cioè sono ormai da tanto tempo che loro sono in una situazione critica, da quando è scoppiata la guerra, da quando ci sono le sanzioni, certamente si è bloccato completamente il flusso verso il cliente più importante che avevano, però adesso sono subentrati altre problematiche, perché anche la guerra, come vi ho spiegato in alcune puntate, che sta penalizzando anche l'azienda in cui io lavoro, quella israeliana, la guerra che si sta svolgendo sul Mar Rosso, di cui se ne parla poco, ma sul Mar Rosso ci sono continui scontri, le navi sono costrette a fare dei giri lunghissimi per arrivare in Europa. Questo sta penalizzando tantissimo l'economia europea, e i clienti europei della Berco fondamentalmente hanno adottato una cosa di cui ho parlato anche nelle ultime puntate, del local to local, ossia il mercato asiatico, quello dei BRICS, soprattutto dei paesi dei BRICS, sta andando molto molto bene. Chiaramente adesso ci sono dei problemi per far arrivare i prodotti in Asia, e costruiamo lì, ci costa anche meno, abbiamo la tecnologia, produciamo lì in loco per venderlo in Asia, non produciamo più in Europa per vendere in Asia, ma lo facciamo lì, ci costa molto meno e riusciamo a farlo, abbiamo la tecnologia e tutto, e chiaramente i fornitori li prendiamo lì. E la Berco è stata penalizzata, ha avuto questo calo del 50% 60% del suo mercato, soprattutto anche perché il mercato del movimento terra, ricordiamolo a tutti, è un mercato che vive di investimenti statali. vive di politiche cosiddette keynesiane, nel senso che bisogna costruire, abbiamo parlato anche sulla puntata del clima, di come sia tremendo la questione, no, dello sviluppo economico nel momento in cui c'è crisi, quando fanno gli investimenti, fanno il cemento, movimentano terra, fanno costruzioni, ma devono essere finanziati. In questo momento quello che viene finanziato è la guerra. I miliardi che vengono investiti sono tutti dedicati all'Ucraina. E dunque ecco perché non si investe sul territorio, ecco perché non si fanno infrastrutture, ecco perché non si fanno grandi opere. In un certo senso per alcuni ambientalisti può essere una cosa positiva, ma l'economia sta andando a rotoli e poi la Berkel ne paga le conseguenze. Certamente lo sviluppo che noi pensiamo non è fatto di cementificazione, ma si possono salvaguardare i posti di lavoro, e qui voglio venire. La Berkel deve essere nazionalizzata, così come deve essere nazionalizzata la Fiat. C'è bisogno di operai che sanno lavorare il ferro e sanno fare cingoli, sanno fare trattori, possono fare anche altro. C'è bisogno di chi investe nel green, si può riconvertire a Berco. Io sono stato una grande azienda, ci sono tantissimi lavoratori ed è il momento che lo Stato prende atto che non è possibile che anni e anni di cassa integrazione, di finanziamenti pubblici, adesso questi qua licenziano e molto probabilmente si rischia di che se ne vadino, e noi abbiamo perso solo un sacco di soldi. La Fiat è l'emblema più incredibile. In questi anni abbiamo comprato la Fiat, non so, 7, 8, 10 volte i soldi che lo Stato gli ha dato, e oggi la Fiat è francese. Con 4 soldi i francesi se la sono comprata, fondamentalmente. E questo succederà anche alla Berco, che è tedesca, molto probabilmente verrà chiusa, e quello lo faranno in altri posti, e si perderanno migliaia di posti di lavoro. Ora, noi siamo con il lavoratore della Berco, io spero che si faccia una battaglia. Avete sentito cosa ha detto il segretario regionale, bisogna fare dei piani di investimento, ma laddove questo stabilimento verrà chiuso o non ci sarà futuro questo stabilimento, non è possibile accettare questi ragionamenti in cui si rubano soldi e poi alla fine a pagare sono i lavoratori e sono gli italiani, e poi sì, questi qua sono dei pirati, sono tutti multinazionali, e bisogna insomma non essere leggeri, non farsi rubare in queste condizioni, i soldi pubblici soprattutto. Ecco, io spero che la battaglia vada avanti, spero che i sindacati prendano facciano scelte più radicali anche di lotta, e si cominci a ragionare anche di occupazione di queste fabbriche per far capire a queste multinazionali che non venderemo cara la pelle. Ecco, ci salutiamo, aggiornamenti alla Berco quando ci saranno li daremo sempre, e ci sentiamo alla prossima puntata. Salve a tutti e amami come ameresti Bambi. Ciao. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro